Haiti è di nuovo in ginocchio dopo il terremoto che l'ha colpita sabato scorso, un terremoto di 7.2 gradi, aumenta il bilancio delle vittime, nelle ultime ore si parla di più di 1.400 morti. Per avere un quadro della situazione noi parliamo con Fabio Checcacci di WeWorld, che è una ONG che ha un progetto attivo ad Haiti, che intanto saluto, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora Fabio, qual è il punto della situazione ad Haiti? La situazione ad Haiti è complicata. Questo sisma è arrivato in un momento in cui il paese già stava attraversando gravi difficoltà dal punto di vista della sicurezza alimentare. Haiti è un paese che ha gli indicatori tra i peggiori al mondo, anche dal punto di vista della malnutrizione infantile. Nell'ultimo mese c'è stato anche l'assassinio del presidente, quindi la situazione del paese è molto complicata. Tra l'altro nella notte è passato anche la tempesta tropicale Grace, che sicuramente non ha facilitato le operazioni di soccorso, che sono già di per sé complicate, perché quei tre dipartimenti sono di difficile accesso in condizioni normali. C'è da tener conto che il quartiere della capitale, da cui parte la strada che si porta nella zona sud, è gestito da delle gang che normalmente non garantiscono la sicurezza del passaggio anche degli aiuti umanitari, dei convogli che saranno previsti prossimamente. Leggevo proprio anche questa cosa che ti volevo chiedere, insomma, queste bande armate potrebbero ostacolare anche la distribuzione degli aiuti? Allora, sicuramente via terra il passaggio non è semplice, questo parlando di gang. So che già dei convogli che sono partiti hanno avuto problemi anche con la popolazione civile, che ha cercato di prendere possesso di alcuni mezzi. No, non sarà semplice. Questo paese sembra martoriato, tu hai ricordato prima anche la questione dell'uccisione di Moïse. La domanda che ti volevo fare riguarda la comunità internazionale. C'è attenzione o sembra disinteressarsene? Allora, come risposta al sisma, no, c'è una grande attenzione. Sicuramente la solidarietà a livello internazionale è già in atto, soprattutto gli Stati Uniti, ma anche da parte dell'Unione Europea. Sicuramente sì, l'attenzione è Haiti è sotto l'attenzione internazionale, quello sicuramente, ma che recentemente alle Nazioni Unite è stato oggetto di discussione. Ricordiamo anche il sisma del 2010, questo nuovo terremoto rischia di, come dire, dare un colpo di grazia a questo paese? Nei tre dipartimenti sicuramente va a aggravare la situazione. Si parla comunque di mediamente un 40% della popolazione di Haiti ha difficoltà con la sicurezza alimentare. Anche noi come WeWorld GVC nei nostri progetti di intervento noi ci occupiamo di aiutare le famiglie più vulnerabili attraverso distribuzione di voucher alimentari o direttamente con del denaro, per cercare di migliorare le loro capacità di sostentamento da un punto di vista alimentare. Questo sisma sicuramente in quelle zone va a aumentare le famiglie in difficoltà, si parla di più di, con dei dati provvisori, ci sono più di 70.000 persone che sono sfollate, quindi, e sono dati provvisori.